Più o meno sono le 7:30. Seconda parte di Pane, Burro e Rock and Roll. Benvenuti, benvenute. La vedete la luce là in fondo? A destra del lampione crepuscolare. La banda. The band. The band. Se anche voi vedete la luce, benvenuti, benvenute. What light? Have you seen the light? Yes, yes, Jesus H. God damn it, Christ, I have seen the light. 335-100-7777. Qui c'è l'Ariele, Spadino e Fricantoni. Che rabbia, volevo sentire Zorrock nella prima ora, per questo potrei anche non ascoltarvi più, ma vi perdono. Grazie. Ma lo riproporremo nella prima ora, settimana prossima. Un saluto anche a Lorenzo. Quando perdo il segnale di Rock FM, di solito metto Controradio, una radio fiorentina, ma oggi vicino a Barberino, su entrambe le frequenze, c'è Radio Maria. È un segno? Solidarietà agli amici di Controradio. Io sono invidioso dei 18 anni della radio, io ne ho qualcuno in più. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, Oscar. Altri commenti su Zorrock. Alla notizia che anche Garavelli partecipa, mi scrivono: cosa? 30 anni di cultura gettati alle ortiche. Pane, burro, rock and roll è un virus incontrollabile. Tra l'altro, a questo proposito, ragazzi, facciamo un patto tra me e voi là fuori. Qualsiasi cosa succeda quando sentite Zorrock, che nessuno faccia commenti negativi a Garavelli, se no quello non me lo incide più. Ed è fantastica la parte di Garavelli, ok? Siamo in squadra insieme, non fatemi scherzi. Si prosegue con i Boston, More Than a Feeling. Sentito che annuncio che ho fatto, da professionista. my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Than a feeling, Boston. Siamo solo alle 7:37, così sembra dal mio. È due giorni che c'ho la paranoia che sto dando l'orario sbagliato, capito, Svadino? Mi mette un po' in sbattimento. Qualcuno di voi certamente sarà già in ritardo, ma tranquilli, c'è una rubrica appannaggio del nostro rocker di riferimento, si chiama Il Ritardatario Ritardato. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Fricantoni, lei è in ritardo di 2 ore per il meeting d'inizio anno. Lei sa quanto è importante questo meeting. Si fa il planning per tutto l'anno, si stabiliscono le linee guida dell'azienda. Ma dov'era finito? Direttore, mi perdoni, ho avuto problemi con l'indirizzo. Gliel'ho ripetuto 1000 volte, Corso Sempione 2. Corso Sempione 2. Ah, era 2. Ah, Corso Sempione 2, non Corso Sempione 724 724. Chissà perché mi sono segnato Corso Sempione 724. Strano, non trova anche lei, direttore, che è strano? Forse una forza oscura. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Forse una presenza aliena, chissà. E me. Che c'è?

tuttologhi, ammettiamolo. Sappiamo un po' di tutto e spesso e volentieri all'interno di Pane, Burro e Rock'n'Roll si parla di gran cinema. Ma sì, perché no? Anche il cinema è tra gli interessi rock. Il buon cinema è rock. Abbiamo uno speciale compleanni del giorno, quest'oggi selezionato dalla nostra redazione, dedicato al 1° di febbraio e dedicato a grandi attori. E grandi registi. Mi sono nati attori e registi il 1° di febbraio. Del 1894, John Ford. Oh, come non ricordarlo? Infatti, lo stesso che poi a tempo perso faceva anche costruiva le automobili. Lo no? Sapevo che l'avrebbe detto. No, no. No, è un altro. È un Ombre Rosse. Stagecoach. Ma certo, l'unico caso in cui di film nel quale il titolo italiano sì. migliora l'originale. Ha ragione. Ombre Rosse era più carino. Era più evocativo di Stagecoach. Le ricordo anche Rio Bravo. E qui lei qui mi cosa? Ha fatto un'osservazione molto pertinente. Vero? Fuori onda. Mi ha detto il titolo originale era Rio Grande. Sì. Perché ora i doppiatori italiani l'hanno cambiato in Rio Bravo? Perché cambiare Rio Grande in Rio Bravo? Qual è il senso? Non abbiamo una vera spiegazione. Ricordiamo, per ultimo, sempre legato a John Ford, Sentieri Selvaggi. E passiamo a un altro grande attore statunitense. Nel 1901 nasceva Clare Gable. Ah, me l'ha detto, avrei voluto fare un quiz. Tipo? Sinceramente me ne frego. Era Clark Gable. Yeah. Me ne infischio però, non me ne frego. Sinceramente me ne infischio. Può essere, buono. Era Via col vento. Esatto, Gone with the Wind. Esattamente. L'Isola del Diavolo, pure spregiudicati alcuni film legati al grande Gable. E un altro, 1965, Brandon Lee. Sempre oggi, 1° di febbraio, nasceva l'attore statunitense, famoso per Il Corvo, e purtroppo scomparso in circostanze un po' oscure. È misterioso, infatti viene colpito da un autentico proiettile in una scena nel quale ovviamente la pistola avrebbe dovuto sparare munizioni a salve, e invece ci scappò il proiettile che lo colpì a morte. Senta, è vero che stiamo parlando di grandi attori, ma io quasi quasi non chiuderei con l'attrice pornografica di riferimento. Ma lei sta scherzando, vuole fare. DJ Ariele, io mi impossesso del corpo di Fricantoni. 1971. Esatto, per ricordare che nacque Jill Kelly. Jill Kelly, attrice pornografica USA, di cui ho uno scaffale ma pieno. Ma dai, davvero? Sì, la ricordo in tutte le posizioni. Va bene. Soprattutto quella yoga. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. is for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really need, yours are the sweetest guys I've ever seen. And you can tell everybody this is your song, and maybe quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind that I put down in the world. Okay, tutti insieme adesso. How wonderful life is while you're in the world. Quella orecchia de gomma di Elton John e la dolcissima Your Song. Permettetemi di dire medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Mi scrivono via SMS, ieri sera sulla 7 ho visto che la trasmissione Marchette fa il corso di dialetto pugliese. La nicchia sta vincendo. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. O meglio, mamma che emozione, c'è la radio promozione. Eccola. Pensiamo ad altro che è meglio. Da oggi in edicola con Panorama, in allegato ci trovate un capolavoro della storia del rock, ovvero Blonde Don't Blonde del mitico Bob Dylan. L'album che ha rivoluzionato il rock, il capolavoro insuperato di Bob Dylan. Un album che sorprende per i testi appassionati e poetici e le straordinarie composizioni elettriche. Un disco fondamentale nell'evoluzione della musica rock che trovate da oggi in edicola, in allegato con Panorama. Andate, accattatevelo e diteci che vi manda pane, burro e rock and roll. Anche perché Blonde on Blonde spacca tutto, Tra le altre canzoni c'è anche una che si chiama Just Like a Woman. Vuoi dire che Chiambretti ha fatto il corso per pugliese? Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Nobody feels any pain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. She breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed. She finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying.